Da quando era diventato cristiano, Camante non aveva più paura di toccare un morto. Prima invece la sola idea lo atterriva. Una volta mi portarono a casa in barella un malato grave che morì poco dopo, lì sulla mia terrazza. Camante, come gli altri Kikuyu, non volle dare una mano per riportarlo indietro. Però, invece di scappare anche lui sul prato, restò immobile come un piccolo monumento scuro sulla terrazza. Perché mai i Kikuyu temano così poco la morte e poi si spaventino tanto al pensiero di toccare un morto, mentre i bianchi hanno paura di morire ma non di toccare un cadavere, non lo so. È questo un altro tratto per cui ci si accorge che la loro realtà è diversa dalla nostra. In quel campo l'indigeno è irremovibile e i coloni sanno benissimo che non vale la pena di perdere tempo per tentare di persuaderlo. Preferirebbe morire piuttosto che cambiare. Ora, Camante non solo si era liberato da quel terrore, ma prendeva anche in giro i suoi parenti. Si dava persino un po' di aria, quasi vantandosi del suo Dio. Potei mettere alla prova la sua fede perché mi aiutò 3 volte a portare un morto nel periodo che stette alla fattoria. La prima fu una ragazza Kikuyu investita da un carro davanti a casa mia. Il secondo, un giovane rimasto ucciso mentre stava battendo gli alberi del bosco. E il terzo, un vecchio bianco che era capitato alla fattoria, aveva diviso per qualche tempo la nostra vita ed era morto. Si trattava di un mio compatriota, un vecchio danese cieco chiamato Knudsen. Un giorno a Nairobi, avvicinatosi alla mia macchina, mi aveva chiesto se potevo dargli ospitalità nella mia terra. Non aveva un asilo dove rifugiarsi nel mondo. Alla piantagione, in quel periodo, avevo dovuto ridurre il numero dei miei dipendenti bianchi e c'era un bungalow libero che gli potevo cedere temporaneamente. Così venne da noi e visse alla fattoria 6 mesi. Era un personaggio singolare per una fattoria sugli altipiani. Talmente una creatura del mare che pareva di avere fra noi un albatros con le ali tarpate. Le avversità, le malattie, l'alcol lo avevano ridotto un rottame, tutto curvo e sbilenco, canuto come può diventarlo solo la gente dai capelli rossi quando si imbianca. Sembrava si fosse coperto la testa di cenere o avesse ricevuto il marchio del suo proprio elemento e fosse stato messo sotto sale. Ma bruciava in lui una fiamma inestinguibile che nessuna cenere poteva nascondere. Nato da una razza di pescatori danesi, aveva fatto il marinaio per poi diventare uno dei primi pionieri dell'Africa. Chissà quale vento l'aveva portato lì. Il vecchio Knudsen aveva tentato molte imprese nella sua vita, imprese che avevano a che fare con l'acqua, i pesci e gli uccelli, ma non gliene era riuscita bene nessuna. Un tempo, mi raccontò, possedeva una bellissima azienda per la pesca sul lago Vittoria, con chilometri di reti fra le migliori del mondo e una barca a motore. Ma durante la guerra aveva perso tutto. Raccontando quella tragedia, accennava sempre ad un equivoco fatale avvenuto in un momento tenebroso e al tradimento di un amico. Non so di che tradimento si trattasse, perché ogni volta raccontava la storia in modo un po' diverso e quando arrivava al punto famoso cadeva in preda a una tremenda agitazione. Ma qualcosa di vero ci doveva essere, perché nel periodo che passò alla fattoria, il governo gli pagava una specie di pensione di uno scellino al giorno per risarcirlo delle perdite subite. Mi raccontava le sue avventure quando veniva a farmi visita. Spesso, non trovandosi bene nel bungalow, si rifugiava da me. I ragazzi che mandavo a fargli i servizi scappavano continuamente perché lui li aggrediva alla cieca, con la testa protesa, agitando goffamente il bastone e terrorizzandoli. Ma quando non era depresso, veniva a bere una tazza di caffè sulla mia veranda e mi cantava inni patriottici danesi da solo e con grande ardore. Era un piacere per tutti e due parlare la lingua della nostra patria e chiacchieravamo di qualsiasi cosa, anche dei piccoli fatti insignificanti della fattoria, solo per il gusto di parlare. Ma non sempre mi mostravo paziente con lui, perché una volta che aveva cominciato era difficile farlo smettere e mandarlo via. Nell'atmosfera casalinga dei nostri incontri portava seco l'aura dell'antico marinaio o del vecchio uomo di mare. Conosceva l'arte di fare le reti. Le migliori reti da pesca del mondo, diceva. E là, nel bungalow, faceva kikibos, le fruste indigene di pelle di ippopotamo. Le pelli le comprava dagli indigeni o dai coloni del lago Naivasha. Se aveva fortuna, riusciva a tirar fuori anche 50 fruste da ciascuna. Posseggo tuttora un ottimo frustino regalatomi da lui. Intorno alla sua casa, quando le preparava, si diffondeva un fetore spaventoso, simile al fetore del nido di certi vecchi corvi che si nutrono di carogne. Più tardi, quando fu costruito il laghetto, lo si trovava sempre là, immerso in profonde meditazioni, con la sua immagine riflessa verticalmente sotto di lui, come un gabbiano in uno zoo. Nel suo petto fragile e incavato, il vecchio Knudsen aveva il cuore fiero, irascibile e selvaggio di un ragazzo che arde di genuino amore per la lotta. Fanfarone, grandioso, battagliero e romantico, era capace di odiare con un'intensità singolare, sempre vibrante di indignazione e di rabbia contro quasi tutte le persone e le istituzioni con cui aveva a che fare. Invocava su di loro il fuoco e la tempesta sulfurea dei cieli e dipingeva il diavolo sulla parete, come si dice da noi in Danimarca, imitando in ciò Michelangelo, che dipinse tanti diavoli nei suoi affreschi. Era ben felice quando poteva spingere qualcuno ad attaccar briga con qualcun altro, come i bambini che si divertono a far azzuffare due cani o un cane e un gatto. Era formidabile, stupefacente che il vecchio Knudsen potesse ancora, dopo una vita tanto dura, e quando, per così dire, le onde l'avevano portato in una baia tranquilla, dove avrebbe potuto riposarsi con le vele abbassate, anelare in cuor suo alla lotta e alle imprese rischiose come un berserk. Uno di quegli antichi guerrieri norvegesi che combattevano con impeto furioso. Parlava sempre di se stesso come del vecchio Knudsen, in terza persona, e sempre vantandosi e gloriandosi. Non c'era una sola cosa al mondo che il vecchio Knudsen non potesse intraprendere e portare a termine, e non un solo campione di lotta che il vecchio Knudsen non potesse mettere fuori combattimento. Per quel che riguardava gli altri, era un nero pessimista e prevedeva la prossima catastrofica e ben meritata fine di tutti i loro loschi traffici, ma per se stesso era un furioso ottimista. Poco prima di morire mi confidò, dietro giuramento del più assoluto segreto, un piano formidabile che avrebbe reso il vecchio Knudsen milionario, mettendo tutti i suoi nemici alla gogna. Aveva in mente, mi disse, di ripescare dal fondo del lago Naivasha le mille e mille tonnellate di guano ammassate laggiù sin dalla creazione del mondo dagli uccelli marini. Con un ultimo enorme sforzo fece un viaggio fino al lago Naivasha per studiare tutti i dettagli del suo piano. Morì nell'alone di quell'impresa. In quel progetto c'erano tutti gli elementi cari alla sua anima: il fondo del lago, gli uccelli, i tesori nascosti. E perfino il profumo di quelle cose di cui non si dovrebbe parlare ad una signora. In cima alla montagna di guano, con gli occhi della sua mente, vedeva se stesso, il vecchio Knudsen, trionfante, padrone delle onde, armato di tridente. Non ricordo se mi abbia dato mai spiegazioni di come avrebbe fatto a raccogliere il guano dal fondo del lago. Le grandi gesta e i trionfi del vecchio Knudsen, che mi descriveva la sua superiorità in tutto, erano in netto contrasto con la debolezza e l'impotenza del vecchio che li raccontava. Si aveva la sensazione di avere a che fare con due persone distinte ed essenzialmente diverse. La potente figura del vecchio Knudsen si ergeva sullo sfondo, indomita e trionfante, eroina di tutte le avventure. Mentre quello che io conoscevo era solo il suo vecchio servo, tutto curvo e stracco, che non si stancava mai di parlarmi di lui. Quell'ometto umile si era fatto una missione nella vita: vantare e glorificare il nome del vecchio Knudsen fino all'ultimo respiro. Perché lui l'aveva visto, il vecchio Knudsen, lui solo oltre Dio, e non tollerava nessuna eresia in nessuno. Una sola volta l'ho sentito parlare in prima persona. Fu un paio di mesi prima che morisse. Aveva avuto un brutto attacco di cuore, come quello che alla fine lo portò alla tomba. E non avendolo visto da una settimana alla fattoria, andai al suo bungalow per sapere come stava. Lo trovai a letto, in mezzo al tanfo delle pelli di ippopotamo, nella stanza nuda e in disordine. Era cinereo. Gli occhi annebbiati smorivano semisommersi. Non mi rispose né mi disse una sola parola quando gli parlai. Solo dopo un bel pezzo, quando già mi accingevo ad andarmene, mormorò con voce fievole e rauca: «Sto molto». In quel momento non parlava del vecchio Knudsen, che certo non poteva essere né malato né sopraffatto, era il vecchio servo che una volta tanto si permetteva di confessare la sua sofferenza e la sua pena. La vita della fattoria era scialba per il vecchio Knudsen. A volte chiudeva a chiave il suo bungalow e se la svignava senza dir nulla a nessuno, sparendo dal nostro orizzonte. Questo succedeva per lo più, credo, quando sapeva che qualche vecchio amico, qualche altro pioniere del passato glorioso era arrivato a Nairobi. Stava fuori per una settimana o due, finché ci si dimenticava quasi della sua esistenza, e tornava sempre talmente stracco e malato che a malapena poteva trascinarsi fino a casa e aprire la porta del bungalow. Dopo se ne stava rinchiuso un paio di giorni, credo che avesse paura di me. Era sicuro che avrei disapprovato le sue scappate, approfittando della sua debolezza per trionfare sopra di lui. In cuor suo, il vecchio Knudsen, benché cantasse tante volte la canzone della sposa del marinaio, innamorata del mare, aveva una profonda diffidenza per la donna. La considerava nemica dell'uomo per istinto e guastafeste per principio. Il giorno che morì, era stato appunto lontano dalla fattoria un paio di settimane e nessuno si era accorto del suo ritorno. Ma quella volta, evidentemente, voleva fare uno strappo alle sue abitudini e si era incamminato per il sentiero che portava dal bungalow a casa mia. Fu lì che cadde e morì. Io e Camante lo trovammo per terra, tardi nel pomeriggio, mentre andavamo a cercare funghi fra l'erba nuova e bassa della pianura. Eravamo d'aprile, al principio delle grandi piogge. Fu bene che lo trovasse Camante, il solo di tutti gli indigeni che gli avesse dimostrato simpatia. Si interessava a lui come ogni anormale si interessa a un altro anormale. Di tanto in tanto gli portava in regalo qualche uovo e teneva d'occhio i totos perché non lo piantassero in asso. Il vecchio giaceva sul dorso, con gli occhi semiaperti, il cappello nella caduta gli era ruzzolato un po' più in là. Nella morte pareva raccolto e calmo. Eccoti arrivato finalmente, vecchio Knudsen, pensai. Volevo portarlo al suo bungalow, ma era inutile chiamare in aiuto qualcuno dei Kikuyu che si trovavano nei paraggi o nelle shambas vicine. Alla vista del cadavere sarebbero scappati immediatamente per non essere costretti a toccarlo. Dissi a Camante di correre a casa e di far venire Farah per aiutarmi, ma Camante non si mosse. Perché vuoi che corra a casa? Chiese. Lo vedi da te, dissi. Non posso portare da sola il vecchio Buana. E voi Kikuyu siete sciocchi, avete paura di portare un morto. Camante accennò il suo solito risolino muto. Ti sei scordato un'altra volta, Msabu, disse, che sono cristiano. Sollevò il vecchio per i piedi mentre io lo tenevo per la testa e insieme lo portammo al bungalow. Ogni tanto ci dovevamo fermare per riposarci e lo sdraiavamo per terra. Poi Camante si alzava e fissava dritto i piedi del vecchio Knudsen con un atteggiamento che probabilmente aveva visto prendere ai preti della missione scozzese davanti alla morte. Quando l'avemmo steso sul letto, Camante rovistò in camera e in cucina per cercare un panno con cui coprirgli la faccia. Trovò solo un vecchio giornale. Così facevano i cristiani all'ospedale, mi spiegò. Molto tempo dopo, Camante provava ancora una grande soddisfazione all'idea di quella prova della mia ignoranza. Stavamo cucinando insieme e lui all'improvviso, tutto gongolante, scoppiò a ridere. Ti ricordi, Msabu? Disse. Quando ti eri dimenticata che sono cristiano e credevi che avrei avuto paura a portare Imsungumsei, il vecchio uomo bianco? Da quando era cristiano, Camante non aveva più paura dei serpenti. Lo sentii dichiarare agli altri ragazzi che un cristiano, se vuole, può schiacciare sotto il suo tallone il serpente più grande del mondo. Non lo vidi mai fare l'esperimento, ma una volta lo trovai immobile, con la faccia decisa e le mani dietro la schiena, a poca distanza dalla capanna del cuoco. Dal tetto seppi aveva fatto capolino una vipera. Tutti i bambini facevano cerchio intorno, come fili di paglia sparsi da una ventata. Farah andò in casa a prendere il fucile e l'ammazzò. Quando tutto fu finito e la tempesta si placò, Niore, il figlio di Sice, chiese a Camante: Ma tu, Camante, perché non l'hai schiacciato col tallone il grosso serpente cattivo? Perché era sul tetto, rispose lui. Una volta volli provare ad andare a caccia con l'arco e le frecce. Ero forte, ma duravo fatica a piegare l'arco Van de Robo che mi ero fatta comprare da Farah. Alla fine, però, dopo molti esercizi divenni bravissima. Camante, che era ancora molto piccolo, stava sempre a guardarmi quando mi esercitavo sul prato. Sembrava poco persuaso di quella novità. Sei cristiana anche quando tiri con l'arco? Mi chiese un giorno. Pensavo che i cristiani adoperassero solo il fucile. Gli mostrai nella mia piccola Bibbia un'illustrazione della storia del figlio di Hagar e E Dio era col fanciullo ed egli crebbe e si fortificò nelle selve e divenne un arciere. Ho capito, disse Camante, era come te. Camante sapeva curare uomini e animali. Se un cane aveva una scheggia in una zampa, lui riusciva a togliergliela con incredibile delicatezza. Una volta ne guarì uno anche dal morso di un serpente. Per qualche tempo avemo in casa una cicogna con un'ala spezzata. Era un personaggio risoluto, girava per tutte le stanze e quando arrivava nella mia stanza da letto combatteva atroci duelli contro la sua stessa immagine nello specchio, sbatacchiando e roteando le ali come spade. Seguiva Camante dappertutto e non si poteva fare a meno di pensare che stesse deliberatamente imitando il passo rigido e misurato di lui. Avevano le gambe magre quasi allo stesso modo. I bambinetti indigeni, sempre pronti a notare ogni minimo tratto grottesco, la prima volta che videro la coppia si misero a strepitare, esilarati. Camante capì che ridevano di lui, ma non era tipo da badare molto a quello che pensavano gli altri. Si limitò a mandare i bambini a cercare ranocchie nel pantano per il pasto della cicogna. Anche di Lulu si occupava Camante. Capitolo 4. Una gazzella. Lulu venne nella mia casa dai boschi come Camante era venuto dalla pianura. A oriente della fattoria si estendeva la riserva del Gong, a quei tempi ancora quasi tutta foresta vergine. Fu un vero dolore per me quando la batterono per piantare al suo posto gli eucalipti e la grevillea. Avrebbe potuto essere un luogo di svago e un parco incomparabile per Nairobi. La foresta africana è piena di mistero. Pare di addentrarsi nei meandri di un antico arazzo, scolorito o annerito qua e là dal tempo, ma meravigliosamente ricco di sfumature verdi. Il cielo non si scorge da dentro, ma i raggi del sole, penetrando fra le foglie, accendono strani giochi di luce. I rampicanti appesi dappertutto, e i funghi grigi simili a barbe fluenti sugli alberi le danno un'aria segreta, appartata. La domenica, quando non si lavorava, alla fattoria ci andavo sempre a cavallo con Farah, attraversando i cucuzzoli irregolari e i ruscelli tortuosi. Nell'aria fresca come acqua alitavano i profumi delle piante. Al principio delle grandi piogge, quando i rampicanti fiorivano, si passava per aloni e aloni di fragranza. C'è una specie di olivella africana dei boschi, dai piccoli germogli lattei vischiosi, che ha il profumo quasi troppo dolce del lillà e del mughetto. Qua e là, sui rami di un tronco cavo, i kikuyu avevano appeso cordate di pelli perché le api ci facessero il nido e dessero il miele. Una volta, dietro la curva di un sentiero, vedemmo un leopardo accosciato là in mezzo, nella foresta. Pareva dipinto in un arazzo. In alto, al di sopra della terra, viveva una popolazione garrula e irrequieta, la razza delle piccole scimmie grigie. Dove passavano, il loro odore restava a lungo nell'aria, un odore di secco e di stantio, come quello dei topi. Addentrandosi nella foresta a cavallo, capitava di sentire improvvisamente sopra di noi la corsa e il sibilo della colonia in viaggio. A restare fermi per un poco, nello stesso posto, improvvisamente si scorgeva una scimmia seduta immobile su un albero. Era la prima. Di lì a un istante si scopriva che tutta la foresta intorno era viva, abitata. Forme grigie o nere a seconda di come li coglieva la luce, gli inquilini, i membri della tribù con lunghe code penzoloni, troneggiavano come frutti sui rami e mettevano un suono curioso come lo schiocco di un bacio, seguito da un colpetto di tosse. Se si provava a far loro il verso, subito cominciavano a voltare la testa di qua e di là con affettazione. Ma bastava un movimento improvviso perché fuggissero in un lampo. Si sentiva il chiasso che si allontanava mentre fendevano le cime degli alberi e sparivano nel bosco come un banco di pesci in mezzo alle onde. In un viottolo stretto, nel folto della foresta, ho visto anche il cinghiale gigante della foresta, un personaggio che si incontra di frequente. Era pieno giorno, faceva un caldo soffocante. Mi spuntò alle spalle d'improvviso, insieme alla sua sposa e ai tre porcellini. La famiglia andava di fretta, tutti, grandi e piccoli, sembravano figure brune ritagliate nella carta contro il verde della foresta illuminata dal sole dietro di loro. Un'apparizione miracolosa, come un'immagine riflessa in uno stagno, come una cosa avvenuta 1.000 anni fa. Lulu era una giovane antilope della tribù delle antilopi dei boschi, le più belle forse fra le antilopi africane. poco più grandi dei daini, vivono nei boschi o nelle macchie, timide, ritrose, a differenza delle antilopi della pianura si fanno vedere di rado, ma le colline del Gong e tutta la città circostante erano il loro paradiso. Se si andava a caccia o ci si accampava lassù di mattina presto o al tramonto, le si vedeva sbucare dai cespugli, uscire nella radura. La loro pelliccia, in quella luce, splendeva come rame. Il maschio si distingueva per le corna dalle curve delicate. E fu così che Lulu divenne un membro della famiglia. Una mattina mi toccò di recarmi a Nairobi in macchina. Poco tempo prima c'era stato un incendio al mulino e dovevo andare spesso in città per cercare di riscuotere l'assicurazione. Quella volta, era mattina presto, avevo la testa piena di calcoli e di cifre. Mentre passavo in macchina per il Gong, un gruppetto di bambini Kikuyu mi chiamò gridando dal ciglio della strada. Avevano in collo una piccola antilope e me la mostravano di lontano. Dovevano averla trovata dentro la macchia e speravano di vendermela. Ma io ero già in ritardo per l'appuntamento a Nairobi, non avevo tempo per pensare alle antilopi, non mi fermai nemmeno. Tornando indietro, il pomeriggio, arrivata allo stesso posto, fui accolta di nuovo dal solito urlio. I bambini erano ancora là, sul ciglio della strada, un po' stanchi e delusi. Dovevano aver cercato di vendere l'antilope a tutti quelli che passavano durante il giorno, ma adesso si avvicinava il tramonto ed erano ansiosi di concludere l'affare. Tendevano la bestiola verso di me per tentarmi. Se non che io avevo avuto una giornata faticosa a Nairobi, per l'assicurazione non avevo ancora concluso nulla, così continuai per la mia strada senza curarmi di rispondere. Tornata a casa, pranzai e me ne andai a letto senza pensarci più. Mi ero appena addormentata che mi risvegliai con un gran senso di terrore. L'immagine dei bambini e dell'antilope si era ricomposta e mi stava davanti, nitida come un quadro. Mi alzai a sedere sul letto, non meno atterrita che se qualcuno avesse cercato di soffocarmi. Che sarebbe successo dell'antilope in mano ai suoi catturatori, che l'avevano tenuta tutto quel caldo giorno, sospesa per le gambe riunite? Così piccola, certo, non sapeva mangiare da sé. Io, levita e prete, allo stesso tempo l'ero passata due volte davanti senza badarle. E ora, in quel momento, dov'era? Mi alzai in preda a un vero panico e svegliai i servi. Dissi che dovevano trovare l'antilope e portarmela la mattina, altrimenti li avrei licenziati tutti quanti. Si misero subito in moto. Due di loro erano in automobile con me quel giorno e pareva non avessero degnato di uno sguardo nei bambini nell'antilope. Adesso invece si fecero avanti e descrissero agli altri con tutti i particolari il posto e l'ora in cui li avevamo incontrati, nonché la famiglia a cui appartenevano i bambini. Era una notte di luna. La mia gente si sparse per i campi, discutendo animatamente la situazione. Li sentii ripetere più volte che sarebbero stati licenziati tutti se non trovavano l'antilope. La mattina dopo, molto presto, Farah mi aveva appena portato il tè quando entrò Juma con l'antilope fra le braccia. Era una femmina. Le mettemmo nome Lulu, che in Swahili significa perla. Lulu era piccola come una gatta. E aveva grandi occhi viola, sereni, le zampe così fragili che nel piegarsi e nel distendersi quando si accucciava o si rialzava pareva si dovessero spezzare. Le orecchie, lisce come seta, erano straordinariamente espressive, il naso nero come un tartufo, gli zoccoli minuscoli le davano l'aria di una damigella cinese vecchio stile con i piedi stretti nei lacci. Tenere in mano una cosa così perfetta era un'esperienza rara. Fece presto a trovarsi a suo agio, ad adattarsi alla casa e ai suoi ospiti. Le prime settimane dovette risolvere il problema dei pavimenti a cera. Appena si avventurava fuori dai tappeti, le gambe le scivolavano nelle quattro direzioni. Pareva una catastrofe irrimediabile, ma Lulu non si lasciò impressionare. In poco tempo imparò a camminare anche là, con un rumore di zoccoli che pareva un ticchettio di dita nervose. Era di una pulizia straordinaria in tutte le sue abitudini, testarda come un bambino. Ma quando le impedivo di fare qualcosa, pareva dicesse: «Ah, oh, per favore, tutto fuorché una scenata!» Camante la tirò su con il popatoio. Di sera la teneva rinchiusa, perché dovevamo stare attenti ai leopardi che dopo il tramonto si aggiravano spesso intorno alla fattoria. Lei, di conseguenza, lo seguiva dappertutto. Gli stava sempre attaccata alle costole. Ogni tanto, quando il ragazzo non faceva ciò che voleva lei, gli dava un colpo con la testa negli stinchi magri. Ed era così carina accanto a lui, che pareva di avere dinanzi una nuova rappresentazione paradossale della Bella e la Bestia. Con la sua grazia e la sua bellezza, Lulu riuscì a spadroneggiare in casa e a farsi trattare con rispetto da tutti.